Un giorno mio nonno mi disse: Salvuzzo, bevete un bello bicchiere di vino che ti fa bene. No, grazie, nonno. Ah, ma Fenno, a un bicchiere di vino non si dice mai di no. Vedi che senza vino non saresti nato neanche tu. Perché, nonno? Secondo te, perché mi sono fidanzato con tua nonna? Perché avevo bevuto 4 bicchieri di vino e tua nonna mi sembrava Sofia Loren. Pubblicità Progresso. Evita anche tu le grandi tragedie. Bevi con responsabilità. Nonna, usa chi disse suo nonno? Che quando mi facevi strozziti era embriaco. Vero?